Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. 600 salsicce di cervello di maiale da Bologna, 300 stinche di maiale da Modena stufati, 1200 tortini tondi da Ferrara, poi 60 fra pavoni, cigni e aironi, 2000 ostriche di Venezia e poi gorgonzola col marchio della Corporazione dei Formaggeri. Benvenuti e benvenute a Möbius, fra poco vi parleremo anche di questo, adesso sentiamo i titoli di questa puntata. È strana la vita in orbita dei macchinari. I nonni improvvisamente ringiovaniscono. È quello che sta accadendo a Mr. Hubble, il telescopio che guarda il cielo da più di 20 anni. Pitagora detestava le fave, Leonardo non era esattamente un buon gustaio e Galeno scrisse il primo libro di diete. Ripercorriamo la storia delle abitudini alimentari dalla preistoria ai fast food. La matematica finisce dappertutto e le aziende italiane devono imparare ad usarla. Un seminario vuole dimostrarlo agli imprenditori. Le idee che escono dalle università, chi le può brevettare? Al momento c'è molta confusione e questo non serve all'innovazione. Patrizia Caraveo, allora aveva ragione Einstein dicendo che andando in orbita nello spazio non si invecchia. Sembra proprio di sì. A velocità però un po' elevate, e invece il nostro signor Mr. Hubble è piuttosto tranquillo, piuttosto stabile, no? Stiamo parlando di questo telescopio che da quanto tempo è in orbita? Era 20 anni. 20 anni. Patrizia Caraveo è ospite questa sera di Möbius dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. 20 anni non sono pochi. Però Hubble aveva avuto un momento in cui si pensava addirittura di tirarlo giù, insomma, di renderlo, di mandarlo in pensione, ha avuto un grande rilancio. Adesso ci sarà una mostra del suo lavoro qui sulla Terra, no? A Venezia, quando? La mostra sarà inaugurata il 15 settembre e sarà aperta al pubblico per un mese, dal 16 settembre poi fino al 15 di novembre. Sarà a Palazzo Loredan, nella sede dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arte. Scienze, Lettere ed Arte. Con una serie di nuove foto che Hubble sta continuando a scattare, una più bella dell'altra. Come mai si è discusso di dismetterlo e poi adesso invece sembra che abbia davanti una carriera ancora senza limiti e di grande efficienza? Si è discusso di dismetterlo quando la precedente o due precedenti amministrazioni della NASA volevano da un lato risparmiare, dall'altro avevano timore di mandare gli astronauti a riparare Hubble. Sì, che non è facile come operazione. Non solo non è facile, ma Hubble purtroppo è su un'orbita di quelle potenzialmente, diciamo, pericolose tra virgolette, perché ci sono ovviamente detriti in giro da un lato, ma dall'altro se lo shuttle avesse dei problemi non potrebbe diciamo così utilizzare la stazione spaziale come porto sicuro per salvare gli astronauti e cose di questo genere. Quindi una missione a Hubble era potenzialmente pericolosa, quindi gli astronauti hanno da un certo punto di vista dovuto offrirsi volontari per farlo, cosa che non hanno esitato a fare, però la NASA ha dovuto mettere sulla rampa di lancio un secondo shuttle pronto a partire in caso il primo avesse avuto problemi. Infatti è una foto storica vedere due shuttle pronti sulla rampa di lancio, uno parte e il secondo è lì pronto a intervenire in attesa. Fortunatamente non ce n'è stato bisogno, la quinta missione di riparazione a Hubble è andata benissimo, è stata molto difficile ma è andata benissimo e gli strumenti rimessi a nuovo o i nuovi strumenti che sono stati portati in orbita funzionano talmente bene che Hubble adesso funziona meglio di quando è andato in orbita. Questo è veramente vuol dire veramente tutto, vuol dire che ha davanti un'attività che può essere estremamente lunga. Però mentre l'ascoltavo mi è venuto in mente che sono gli shuttle che ormai stanno andando in via di esaurimento, entro il 2010 probabilmente partono gli ultimi, poi dopo come si potrà andare a ripararlo? Forse questa volta effettivamente mi sa che ha un po' l'ultimo grande periodo di fascino e poi lo dovremo lasciar perdere. E temo proprio di sì, perché l'ultimo shuttle è previsto per l'inizio del 2011, perché ci sono stati come al solito un po' di ritardi, ma poi la NASA dismette il suo cavallo di battaglia, lo shuttle è stato fatto su una tecnologia tra diciamo gli anni 70 e gli anni 80 e a questo punto bisogna pensare qualcosa di nuovo. Peccato che la NASA sia arrivata un po' in ritardo a pensare qualcosa di nuovo e adesso ad esempio per 4-5 anni per andare sulla stazione spaziale dovrà comprare i biglietti dai colleghi russi. Dai colleghi russi, con un sistema però di lancio che è quello delle capsule, insomma non è più, lo shuttle è un po' un autobus che si può maneggiare, mentre invece le capsule vanno direttamente alla stazione spaziale, quindi garantiscono l'avanti e indietro rispetto alla stazione, ma no, non possono fare quelle manovre di avvicinamento che faceva lo shuttle. Le capsule si avvicinano, attraccano alla stazione spaziale, ma hanno capacità di carico. La capacità di carico ce l'hanno gli europei con la TV. Sì. Che è, invece utilizza la potenza di Ariane 5, quindi porta in orbita molte tonnellate, ha una grossa diciamo baia di carico, è fisicamente un cilindro molto grosso, molto capiente, certo. Assolutamente, e quindi diciamo la possibilità di trasporto massivo verso la stazione spaziale a questo punto ce l'hanno gli europei. Certo, ma non potremo più fare un avvicinamento ad Hubble, ripararlo, risalire, tornare indietro, è questa che l'operazione che non è più possibile, no? No. E questa è la differenza. Va bene, però insomma scatta delle magnifiche foto, lasciamogliele scattare ancora per tanti anni. Non sono solo magnifiche foto, è anche scienza di gran classe. Ah beh, certo, mi scusi. No, ovviamente, dietro quelle foto c'è grandissima scienza e abbiamo visto c'è anche cose. C'è la storia dell'universo, la storia delle stelle, come le stelle nascono, crescono, muoiono. Ci ha fatto vedere soprattutto queste immagini, ci ha dato questi dati sulla nascita delle stelle. Grazie Caraveo, buon lavoro. Buonasera a voi. Giusto il tempo adesso per sentire cosa succede sulle strade e poi parliamo delle 600 salsicce di cervello di maiale da Bologna. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Qui Chiara io devo riprendere quanto dicevo all'inizio, cioè 600 salsicce di cervello di maiale da Bologna e poi questi stinchi da Modena, oddio 300 stufati, poi 1200 tortini tondi da Ferrara, non avevo neanche citato i maccheroni da Genova, questi più normali, tartufi e il purè di rape che proprio non so cosa sia, magari c'è ancora, buonissimo. Diciamo che è un menù particolarmente ricco e io vorrei chiedere al nostro ospite che è in linea, Giancarlo Signore, che è storico delle scienze farmaceutiche e anche autore del libro Storie delle abitudini alimentari dalla preistoria ai fast food, edizione Tecniche Nuove. Buonasera professore. Buonasera a voi. Dunque quello che ha letto Federico dal suo libro è un menù rinascimentale di Ludovico il Moro, che era stato preparato al posto di un menù invece proposto da niente poco di meno che Leonardo da Vinci, che era un pochino più salutista, diciamo così. Ma direi che è un menù antagonista a quello che fece Leonardo da Vinci, il quale proponeva un involtino d'acciuga, un'acciuga avvolta intorno a un broccolo, un passo avanti, un petto d'uccello, un uovo di pavoncella, direi un menù nouvelle vague, un menù esageratamente moderno, ecco, mentre invece sì, quello di Ludovica il Moro che esordiva in maniera eloquente con 600 salsicce di cervello di maiale da Bologna, beh, quello era un vero proprio convivio. Un convivio che fa peraltro il verso a quello che ordinò Leone X quando concesse il patriziato romano a suo fratello Giuliano. È emblematico dire che furono portate 25 portate, per l'appunto, ognuna di 4 piatti, quindi uno può fare facilmente la moltiplicazione e capire qual era anche la funzione nel Rinascimento, vale a dire quella di meravigliare, quella di creare anche la gioia nel popolo che assisteva a tutto questo. Può sembrare così facile la battuta, sì, quelli mangiano e gli altri guardano, ma non era proprio così. La magnificenza del reame veniva resa a parte, mostrata al popolo. Poi ovviamente alla fine del banchetto i resti venivano dati al popolo. In questo caso, nel banchetto di Leone X, le cose peggiorarono, perché le vivande erano tali e tante che da buoni romani hanno cominciato a tirarsele addosso, quindi polli, fagiani, lepri, quaglie, se le tiravano a modi di coriandoli. Nel Rinascimento diciamo che nasce un pochino l'idea del cibo come spettacolo, un po' l'idea moderna che abbiamo del buffet. Esattamente, esattamente. Il Rinascimento è un movimento creativo, quindi qualunque cosa si voglia fare bisogna farlo in maniera artistica, in maniera creativa, e quindi anche il costume alimentare subisce questa influenza. Gassman legge il menù. Primi piatti. Rigatoni con pagliato, lire 7.000. Pasta e fagioli, lire 5.000. Secondi piatti, rognone trifolato, lire 6.000. Spigola arrosto, secondo quantità. Dessert, frutta fresca di stagione. Torta della nonna, tiramisù, servizio incluso. In aggiunta al menù, giovedì, gnocchi. Sabato, tripa. E invece quando nasce il vero menù, come ha letto Gassman? Sì, quello di Gassman è un menù tutto romanesco che quanto a sapore non ha niente da invidiare a quelli rinascimentali, anzi direi che quelli rinascimentali sono creati, quindi c'è un quantomeno un punto interrogativo, mentre invece la cucina romana è una cucina povera, ma proprio per questa selezionata dalla matrona romana che dalle vivande povere ha saputo trarre dei cibi estremamente squisiti. Io sinceramente non mangio il sabato la trippa, ma devo riconoscere che a Roma la trippa la mangiano tutti. Ecco. E invece il menù propriamente detto, quando nasce? Lei mi diceva più o meno post rivoluzione francese, no? Sì, dobbiamo dire è un po' come dire un'evoluzione. Un certo signor Boulanger si mette a servire nella sua locanda dei brodi ristoratori quando faceva freddo, quando uno era stanco. Prenda, questo è un brodo ristorante che ristora la persona. Da qui nasce la parola ristorante, che poi dopo la rivoluzione francese si moltiplicano fino a oltre 500 ristoranti nella sola Parigi. Cito Parigi perché è quella che ha mantenuto, nonostante la rivoluzione francese, in qualche modo l'amore per la forma. Tra l'altro grande cambiamento è che mentre prima si preparava, oggi diciamo buffet, prima un pranzo in Bella Vista, quindi ci si teneva molto a presentarlo nel migliore dei modi, poi successivamente decadde questa abitudine. C'è anche la data, se ricordo bene, 1810, un ambasciatore russo presso la corte di Napoleone, Borisovich Kurakin, ad alcuni suoi invitati, invece di fargli vedere questo tavolo apparecchiato, molte volte si diceva sulla credenza, perché sulla credenza? Perché erano cibi ai quali potevamo dare credenza, erano buoni e soprattutto qualche anno prima non erano avvelenati. Comunque, bensì servì una sequela di piatti secondo l'ordine ipotizzato dallo chef. Questo piatto servito era una novità. Successivamente gli stessi ristoranti, per far sapere quali erano i cibi che avevano preparato, e il padrone di casa per far sapere qual era la sequenza dei cibi serviti, realizzarono la carte, ecco, che poi successivamente dal latino minute venne chiamato menù. Senta Giancarlo Signore, Leonardo, lei scrive nel libro, non era esattamente un buon gustaio e Pitagora detestava le fave, ma per esempio questa roba di Leonardo che non era un buon gustaio, come mai? Prediligeva le portate un pochino più leggere rispetto... Erano portate molto più leggere e soprattutto non erano sovraccariche di salse, tant'è vero che lui diceva, ma se dobbiamo mangiare un coniglio, che sappia di coniglio, che non ci sia troppo pepe, che non ci sia l'agresto, che non ci sia il miele, tanto per citare alcune salse molto, molto usate, oppure l'aceto balsamico, molte, molto usate all'epoca. Io penso che fosse sicuramente un buon gustaio, però nel senso fisiologico, voglio dire, della parola, quindi porzioni piccole, porzioni saporite, facilmente digeribili. Ecco, non ci scordiamo che Leonardo da Vinci da giovane ha gestito un suo ristorante, Le Tre Rane, regolarmente fallito, come molte cose. Era una cucina troppo sana, probabilmente. All'epoca la quantità era abbastanza determinante, invece Leonardo era per lo studio, ecco, questa forse è l'espressione più giusta, era lo studio dei sapori. Leonardo era un po' più moderno. Sì, e questo è esattamente vero, era assolutamente 4 secoli addirittura, no? Perché poi è stato in qualche modo non copiato, ma comunque ricorda Bocuse, il francese che ha dato vita alla Nouvelle Cuisine, che faceva dei piatti molto ricercati. Le malelingue dicevano piatti piccoli e conti piuttosto esagerati, grandi, però in realtà era una cucina molto molto raffinata. Fin dalla preistoria, vero professore, che lei nel suo libro prende da segna anche questo periodo, gli uomini potevano scegliere in qualche modo se il menù vegetariano o il menù di carne, no? Più o meno. Io ho voluto inserire anche un'osservazione, uno studio sulla preistoria, non tanto per fare un esercizio di cultura, ma perché abbiamo l'uomo di 1 milione di anni fa assolutamente vegetariano, mano a mano che si sposta nella savana diventa sempre più carnivoro, quindi aumenta di statura, aumenta di cervello, però queste due cose danno il destro agli studiosi di dietetica per dire, vedi, non dobbiamo mangiare troppa carne perché le sue scorie fanno male all'organismo, tant'è vero che il nostro progenitore, no, si alimentava solo di vegetali, altri invece di scuola, definiamola così, anglosassone, invece dicono sì, va bene, però l'uomo è arrivato ad essere erectus e poi sapiens sapiens grazie a questo grande apporto alimentare di carne, per cui il cervello poi da 400 grammi è passato a 1 kg e 400 grammi. Grazie, ecco. Allora Giancarlo Signore, ripetiamo ovviamente il titolo del libro: Storia delle abitudini alimentari, dalla preistoria ai fast food, edizione Tecniche Nuove. Grazie professore. Grazie a lei, grazie. Buonasera, grazie. Buonasera. Una pausa adesso e poi un tema abbastanza singolare: la matematica e le aziende. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Probabilmente molti possono pensare che se dico matematica per le aziende sia qualcosa che abbia a che vedere con i bilanci delle aziende, con i numeri, insomma gli aspetti economici. Questo è certamente vero, ma non è assolutamente solo questo. È abbastanza facile pensare che possa avere a che fare la matematica con le aziende nelle quali ci sia molta tecnologia, molta fisica avanzata, ma qui invece vogliamo parlare di molto di più, e cioè vogliamo avere un'altra ennesima dimostrazione di come la matematica riesca ad infilarsi davvero in tutte le parti, in tutti i luoghi, anche quelli più impensati. Parlo di matematica per le aziende con Alessandra Micheletti. Buonasera Micheletti. Buonasera. Matematica, insegnante associato all'Università degli Studi di Milano, al corso di laurea in matematica, e lei però lavora in particolare in quale area di ricerca? Probabilità e statistiche. Ok, allora voi intanto cominciamo da un dato, da un'informazione importante. Sta per partire un seminario nel quale voi cercherete di far vedere molto bene come matematica e aziende sia un binomio fortissimo, insomma, che si sposa molto bene. Esatto, l'11 settembre avremo un incontro in cui presenteremo il nostro programma educativo di matematica industriale, che viene svolto in collaborazione con il Consorzio Europeo di Matematica Industriale, che è un consorzio di università europee. Dove si svolge il seminario? Il seminario si svolgerà al Dipartimento di Matematica in via Salvini 50 a Milano. A Milano. E per entrare in contatto con voi che cosa bisogna fare? Si può mandare un'email a me stessa, cioè alessandra.micheletti@unimi.it. unimi.università.milano.it. Allora, chi può essere interessato a scriverle? Beh, non tanto solo dei matematici, insomma, anzi, voi volete avere lì il più possibile della gente che lavori nelle aziende, che abbia delle attività nelle aziende, o perché sono imprenditori o perché sono decisori. Ma vogliamo fare qualche esempio di abbastanza, che può sembrare abbastanza improbabile, insomma, di applicazione della matematica nelle attività industriali? Sì, per esempio in passato con alcuni studenti abbiamo studiato come il cemento rinforzato con acciaio può essere descritto matematicamente, soprattutto la geometria di questo cemento può essere descritta e quantitativamente, quindi può dire se un materiale è migliore di un altro. Cioè se oppure la struttura in cemento è più o meno funzionale, questo che le vuol dire? Sì, e anche se diciamo il prodotto è stato fatto con determinate caratteristiche che lo rendono più solido. Quindi in questo caso abbiamo della matematica che riesce a dire a un'impresa edile, a questo punto, che deve costruire, che costruisce con il cemento, se le forme che sta dando a un progetto piuttosto che a un altro sono quelle che, come dire, esaltano meglio le possibilità del cemento, oppure viceversa, insomma, che invece le riducono. Esatto, sì. Oppure quali altre applicazioni? Un altro esempio che era stato affrontato da un gruppo di studenti era la progettazione di lenti a contatto, che tipicamente vanno tagliate da oggetti più grandi, no? Da un vetro, diciamo, più grande. E il modo in cui viene effettuato il taglio deve risultare il più liscio possibile sul contorno per non creare disturbi all'occhio. E allora il problema è quanti, diciamo, taglierini e con che forma li devo usare per tagliare in modo ottimale la lente a contatto. E questo è un problema che avevano studiato con lo scopo di cercare di minimizzare poi i costi di correzione delle imperfezioni dopo il taglio. Quindi io ho quasi la sensazione che se le chiedo di citarmi un'area di produzione nella quale la matematica non entra, lei è in forte imbarazzo. Eh sì. Non c'è. Non c'è. La matematica si può applicare, secondo me, a qualsiasi cosa. L'abbiamo applicata al riconoscimento di difetti nelle piastrelle, per una ditta di piastrelle, o nel riconoscimento anche di difetti in microchip. Sì, certo. Ma guardi, io lo so, lo cito, può entrare anche nella coltivazione di patate, può entrare anche nell'agricoltura, non parliamone poi nel packaging, no? Nel come conserviamo gli alimenti e quindi la forma da dare a questi contenitori. Esatto, addirittura un problema dato tempo fa, appunto in uno di questi seminari come questo che ci sarà l'11 settembre, era la produzione di etanolo dalla fermentazione del vino o della birra con un lievito, cosa che ovviamente va fatta diversamente a seconda che uno stia fermentando il vino o la birra o invece dei cereali per produrre dei carburanti biologici. E in questo caso la matematica entra dentro perché riesce, mettendo dei numeri nei posti giusti, a ottimizzare un processo? Sì, riesce anche a spiegare come si riproducono questi lieviti e quindi in che modo possono diciamo produrre la quantità di etanolo corretta. Ah, quindi qui voi intervenite proprio nel misurare il fenomeno che è quello della lievitazione. Sì, esatto. Sì. E beh, insomma, è veramente pervasiva. Ecco la ragione per cui, e questo noi lo consigliamo certamente a chi ci ascolta, un'impresa può avere dalla matematica applicata alla sua attività dei risultati interessati in termini di risparmio, di efficienza, no? Di tempi più corti e anche di prodotti migliori. Esatto, sì. Va bene. Cerchiamo di fare. Allora, ripetiamo, 11 settembre, scrivere a lei alessandra.micheletti@unimi. Università Milano, unimi.it, c'è questo seminario rivolto alle aziende, il tema è matematica e aziende. Esatto. Grazie Micheletti, a presto. Grazie a lei, arrivederci. Sito per i test nucleari di Semipalatinsk, oggi Kazakistan, nei lunghi anni della Guerra Fredda, territorio sovietico. Una regione grande quanto il Piemonte, con un'area centrale abbastanza deserta, ma circondata da non pochi paesi. Qui, dal 1949 al 1989, l'anno della caduta del muro, sono esplosi 456 ordigni nucleari, 340 sotterranei, 116 in atmosfera, con esplosioni al suolo o ad altezza, variabili con lanci d'aereo. Il primo test, la prima esplosione, avvenne esattamente di questi giorni. Era il 29 agosto del 1949. La bomba esplose, quella prima bomba. Cosa accadde alla gente? Fu evacuata? Ho posto la domanda a Leon Vintro, fisico dell'University College di Dublino, che a ESOS 2010 a Torino ha tenuto un seminario sulla storia di quel luogo. Vintro ci racconta che per la prima esplosione non fu evacuato nessuno e gli effetti della bomba si concentrarono in una specifica direzione, quindi le popolazioni ne furono investite. Si capì quindi che il problema era consistente. Però poi per tutti gli altri esperimenti la gente fu evacuata e poi riportata nei paesi dopo 3 settimane, che non è proprio la migliore delle prassi. Esplosero solo bombe a Semipalatinsk? No. Il sito fu usato per test di molti altri tipi di armamenti, tutti però connessi a effetti radioattivi. Per esempio, la diffusione in ambiente di liquidi o polveri radioattivi. La gran parte dei documenti che descrivono il funzionamento e la gestione del sito sono scomparsi. Il Kazakistan lo ha chiesto alla Russia di oggi, ma senza risultati. Su questa zona un gruppo di ricerca lavora da 6 anni per capire cosa sia successo e tentare di avere un quadro degli effetti che su questa popolazione gli esperimenti possono aver avuto. Nicholas Priest, della Università di Middlesex in Inghilterra, ha molti dubbi però sul fatto che si possano raggiungere dei risultati soddisfacenti. Infatti Priest ci dice che i dati a disposizione sono scarsissimi, i presidi medici in zona sono praticamente inesistenti e quindi in questi anni è stato registrato ben poco, per non dire nulla, del quadro clinico generale in merito all'insorgenza di patologie cancerogene. Semipalatinsk, quindi, sarà uno di quei luoghi del nostro pianeta testimoni di una grande tragedia, grande ma muta. Lo so che l'immagine che ne esce non è delle migliori, perché siamo abituati a pensare agli scimpanzé come a dei simpaticoni, ma sono pur sempre animali che, come noi, non disdegnano la competitività estrema, ovvero quella per cui finisce a botte. Nelle foreste dell'Uganda di botte se ne sono viste non poche. John Mitani, primatologo, ha terminato, pensate un po', una lunga osservazione di un gruppo di scimpanzé durata 10 anni. A tale gruppo è stato dato un nome, Ngogo, composto da circa 150 individui ed è il gruppo più consistente in azione nel Kibale National Park. È proprio il caso di dire in azione, perché questo piccolo esercito ha svolto un'attività di perlustrazione costante del territorio, anche allargando la propria area territoriale. Ciò significa che altri gruppi sono entrati in contatto con Ngogo, e altri gruppi di scimpanzé, e l'hanno vista decisamente brutta. Dal 1999 al 2009 le vittime dei Ngogo sono state 18. Al termine del decennio di espansione il gruppo ha aumentato il proprio territorio del 22%. Si è trattato quindi di una vera campagna militare di espansione. E adesso sembra che sia giunta al termine. Una campagna che può avere effetti notevoli, infatti è dimostrato che l'estensione territoriale determina condizioni di vita migliori e quindi una crescita nelle dimensioni corporali dei maschi. Vi viene ora in mente che ciò significhi botte più efficienti. Esatto, è così. E poi maschi più prestanti significa anche maggiore attrattività per le femmine di altri gruppi limitrofi. Succede pure questo, infatti, un arrivo di nuove ragazze. Il risultato è che in Ngogo possono diventare completamente dominanti. Perché questo desiderio di espansione? Beh, noi umani facciamo queste cose per l'oro, il petrolio, i diamanti o per semplice e assoluto desiderio di potere. Qui ci si divide dagli scimpanzé. Infatti, intorno al territorio iniziale dei Ngogo stavano crescendo degli alberi di gelso, dei cui frutti i nostri scimpanzé sono golosi, e quindi si sono messi a menare le mani, che nel loro caso, è bene ricordarlo, sono praticamente 4. Torniamo al traffico per vedere se ci sono novità. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Cesare Galli, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, la presento, ordinario di diritto industriale all'Università di Parma, però dirige anche un importante studio qua a Milano specializzato in proprietà intellettuale. Queste sono le sue, diciamo, i suoi crediti, le sue caratteristiche. Galli, ci sentiamo per discutere di che cosa succede nelle nostre università per quanto riguarda la ricerca, le idee che vengono fuori e la brevettazione, il diritto di proprietà su queste idee. Mi pare che siamo in una situazione, come dire, bizzarra, cioè all'italiana. Al momento abbiamo un insieme di normative che si sono susseguite anche in breve tempo, creando una gran confusione. C'è un orizzonte nuovo che speriamo possa dirimere la vicenda, però veniamo ad oggi. Allora, un'azienda arriva all'università per far fare un certo lavoro, da questo lavoro ne nasce un'idea e bisogna, magari non necessariamente connessa, no? Al lavoro, alla commessa che è stata fatta, e quindi si apre una possibilità di brevettazione. Che cosa succede adesso, avendo come interpreti, come attori, il ricercatore, anche singolo, che ha lavorato al progetto, l'università e l'azienda? La situazione è effettivamente oggi una situazione confusa e in qualche misura che pone l'Italia in controtendenza rispetto all'Europa. Mentre nel resto d'Europa è l'università il titolare dei diritti sulle invenzioni che sono state realizzate dai suoi ricercatori e così pure le istituzioni pubbliche di ricerca. Ovviamente università che possono quindi disporre di questi diritti anche a favore di un committente privato che quindi intenda commissionare un lavoro di ricerca all'università, e quindi dipende tutto da quello che è stato pattuito per contratto. Sì. L'Italia ha una situazione in qualche modo, ripeto, diversa e in controtendenza, perché nel 2001 con una norma in qualche modo blitz, i diritti su queste invenzioni universitarie sono stati attribuiti ai ricercatori, dando all'università soltanto dei diritti residuali, eventualmente a compenso. Nel 2005, col varo del codice della proprietà industriale, non si è potuto porre immediatamente rimedio a queste disposizioni, ma perlomeno si è posto rimedio al punto più delicato di questa, e cioè l'ipotesi in cui la ricerca era stata effettuata su commessa di privati o comunque su finanziamento di un altro ente pubblico, perché in questo caso si è stabilito che questa disposizione sulla titolarità dell'invenzione in capo al ricercatore non opera. E questo dà almeno una possibilità di muoversi ai privati con dei contratti che però devono essere dei contratti in qualche misura blindati, e che è bene che coinvolgano comunque anche i ricercatori direttamente, proprio per evitare di trovarsi poi delle spiacevoli sorprese al momento in cui si traggono le somme di questa ricerca e si tratta di stabilire a chi spettano i risultati. Ok, allora intanto io le chiedo due cose. In generale, al di fuori dell'ambito universitario, quando uno svolge un'attività di ricerca, per esempio industriale, all'interno di un'azienda, il singolo che la svolge, come stanno le cose? Non è lui proprietario, non è a lui che va, come dire, il diritto di brevettare. Diciamo che dipende dalla situazione specifica del singolo caso, ma sulla base di una disciplina che, per quanto non del tutto chiara, è ormai rodata, perché è una disciplina che risale addirittura al 1939. Si distinguono fondamentalmente tre ipotesi. L'ipotesi in cui l'invenzione sia stata realizzata da un ricercatore che era chiamato a fare una ricerca in un determinato settore per conseguire un'innovazione brevettabile, e allora tutti i diritti appartengono al datore di lavoro. Sì. All'ipotesi in cui viceversa la ricerca è stata bensì fatta nell'ambito del rapporto di lavoro, ma non era l'oggetto specifico di questo rapporto di lavoro, il caso classico in cui l'inventore va oltre i suoi compiti, e in questo caso la invenzione spetta comunque al datore di lavoro, ma al dipendente inventore spetta il cosiddetto equo premio, cioè un premio commisurato all'importanza dell'invenzione e naturalmente anche al ruolo che l'inventore aveva nell'azienda. E la terza ipotesi è quella in cui l'inventore, pur essendo un dipendente, l'invenzione se l'è fatta per conto proprio, completamente esterna ai rapporti con l'impresa, e allora all'impresa compete esclusivamente un diritto di opzione per divenire titolare di questo eventuale brevetto in Italia o all'estero, e sempre e soltanto che l'invenzione effettivamente si collochi all'interno del suo specifico ambito di attività, voglio dire l'ambito di attività dell'impresa. Insomma, un dipendente di una società di trasporti che inventi un nuovo sistema di fissione nucleare, l'invenzione se la terrà lui, non dovrà evidentemente darla al suo datore di lavoro. Questo sistema è un sistema che ha avuto luci ed ombre, perché fino a pochi anni fa era applicato dai giudici del lavoro che non avevano una competenza specifica su problemi così delicati, e quindi la giurisprudenza è stata molto oscillante, ma dal 2003 con l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale la situazione si è in qualche modo consolidata. Questo, come ripeto, nel settore privato e anche nel settore pubblico, diverso dal settore pubblico della ricerca, dove invece c'è questa norma bizzarra che ho detto prima, introdotta nel 2001, e che io lo vedo dal mio osservatorio privilegiato, perché da un lato faccio parte della Commissione Brevetti dell'Università di Parma, che è una delle università italiane più attiva sul versante della ricerca e della brevettazione della ricerca, dall'altro lo vedo ovviamente come professionista che molto spesso invece assiste le imprese che si devono occupare di commissionare alle università delle attività di ricerca. Ripeto, la situazione qui è più ambigua, più delicata e richiede evidentemente molta, molta, molta attenzione. Ecco, e allora appunto andiamo alle imprese. Certamente in questo quadro di insomma abbastanza robusta confusione, per le aziende può diventare veramente un problema entrare in relazione con l'università e con la ricerca se questo sistema della brevettazione non è ben delineato. sta arrivando proprio in questi giorni a conclusione l'iter per l'adozione di una nuova norma in questa materia nell'ambito della revisione del codice della proprietà industriale sulla base di una delega dell'anno scorso. Io ho fatto parte della commissione per la revisione. La nuova disposizione applica anche ai ricercatori universitari, o almeno dovrebbe applicare, ora la vedremo, le stesse regole che valgono nel settore privato, rispettando rigorosamente il principio costituzionale di eguaglianza e facendo quei soli adattamenti che dipendono dal fatto che ovviamente all'interno dell'università non c'è mai interesse a sfruttare l'invenzione in regime di segreto, che è invece una possibilità che potrebbe avere l'imprenditore privato. Sulla base di questa norma, quindi, i rapporti fra università e imprese saranno più semplici. Il problema piuttosto si pone per gli spin-off universitari, si pone per il caso in cui le invenzioni siano state fatte dentro l'università, non sulla base di una ricerca commissionata da privati, ma ovviamente i brevetti che così vengono conseguiti non devono restare chiusi in un cassetto o diventare semplicemente pubblicazioni per partecipare ai concorsi universitari, ma devono diventare motore dello sviluppo economico dell'azienda Italia. Per questo nella norma è anche prevista una disposizione programmatica che invita le università anche a consorziarsi fra loro, e l'esempio bellissimo è quello di un'iniziativa come quella del professor Pietrabissa del Politecnico di Milano, che ha già iniziato con Netval un'esperienza molto proficua in questo senso, allo scopo di far sì che le loro invenzioni, le invenzioni fatte dall'università, diventino poi, vengano messe nel circolo delle imprese e divengano poi appunto motore per la nostra attività economica. Perché qui c'è anche da ricordare che la brevettazione vuol dire anche una certa o qual certa esposizione, insomma investimento economico, e quindi non è che sono lì tutti immediatamente pronti e felici a poter brevettare, bisogna prendersi una certa responsabilità, quindi la normativa deve essere anche in grado di riuscire a mettere in moto una soluzione brevettuale, se no si rischia di restare congelati ognuno su proprie posizioni tra un po' di convenienze e un po' di svantaggi, e a lei se ne va il brevetto, no? Assolutamente sì. Bisogna utilizzare al meglio gli strumenti che oggi sono a disposizione, ripeto, delle università ma anche delle imprese. Penso al fatto che con una bella importante convenzione stipulata tra l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e l'Ufficio Europeo dei Brevetti, le domande di brevetto italiano sono automaticamente, una volta che venga depositata la traduzione in lingua inglese, trasmesse all'Ufficio Europeo, che fa avere in tempi ragionevoli, direi circa 8-9 mesi, un rapporto di ricerca. In pratica spiega se l'invenzione è valida o non valida. In questo tempo la parte, il depositante, ha il tempo per poter stabilire, decidere se vale la pena di estendere internazionalmente entro i 12 mesi dell'anno di priorità unionista il suo brevetto all'estero. È una possibilità importante che può servire anche qui per stabilire di fare intanto l'investimento iniziale, tutto sommato modesto, qualche migliaio di euro fra il deposito della domanda, la scrittura della stessa, la predisposizione per chiedere il brevetto italiano, e poi invece se vale la pena appunto di spendere di più, fare un investimento più rilevante per trasformare questa domanda italiana in un brevetto europeo, o magari estenderla ai paesi di maggiore interesse come possono essere gli Stati Uniti, la Cina o il Giappone in particolare in questo momento. Quindi anche qui si tratta di prestare attenzione a questi temi e di gestirli nel modo più professionale possibile. E forse anche di avere una normativa che circondi, che sia di aiuto a quello che poi può essere il vero asse centrale in queste vicende, cioè che le parti riescano a scrivere un buon contratto tra di loro, che entri nei particolari e che quindi possa risolvere ogni possibile controversia. Assolutamente sì, e io penso che lo sforzo che si è cercato di fare con questa revisione possa essere un aiuto importante, che non significa che l'attenzione al contratto non ci dovrà più essere, che tutti i problemi sono superati, ma che perlomeno ci sono le premesse per poter fare un buon lavoro e per potersi muovere bene, con certezza e senza quelle ambiguità che molto spesso negli anni passati hanno frenato questa collaborazione fra università e imprese, che viceversa è un fattore essenziale per migliorare da un lato la competitività delle nostre imprese, ma dall'altro lato anche per le finanze delle nostre università e per il fatto che le università possano avere un rapporto sempre più stretto con la realtà vera, che molto spesso latita in certi ambienti. Speriamo che tutto questo riesca a trovare una propria sistemazione, perché qui a Mebius, nella nostra trasmissione, l'abbiamo detto spesso, c'è il problema che, insomma, qualunque strumento possa agevolare uno sviluppo della cultura dell'innovazione, dello stile di innovazione nel nostro paese, è ben visto, perché non è che in questo quadro noi siamo così ben messi, insomma, bisogna fare molto per migliorare le modalità dell'innovazione qui da noi, no? Assolutamente sì, e devo dire che purtroppo sotto questo aspetto il ritardo non è solo dell'università, ma molto spesso è anche del mondo delle imprese, che in numerosi casi non ha saputo cogliere questa opportunità e il fatto che solo investendo in sviluppo, investendo in innovazione, si garantisce una continuità al nostro sistema produttivo che possa andare oltre il contingente. Grazie Cesare Galli, aspettiamo di vedere cosa succede con questa norma. Grazie a lei. Arrivederci, buon lavoro. So che possono sembrare queste vicende dei brevetti, come altre che riguardano la gestione della ricerca, possono sembrare un po' noiose e burocratiche, ma poche cose sono tanto cruciali per le sorti economiche di un paese in generale, e molto di più per uno come il nostro, di quelle che ci devono garantire uno sviluppo dell'innovazione. Buona serata a tutti e a tutte, ci sentiamo fra 7 giorni.